Determinazione del valore di una rendita costante ad una data epoca di valutazione. Si dice valore della rendita ad una epoca non anteriore alla scadenza dell'ultima rata la somma dei montanti delle singole rate calcolati all'epoca di valutazione. Si parla di montante della rendita. Si dice valore della rendita ad un'epoca non posteriore alla scadenza della prima rata la somma dei valori che si ottengono scontando le singole rate all'epoca di valutazione, cioè alla data odierna. Si parla di valore attuale. Rendite periodiche. Le rendite possono essere annue, le rate scadono ogni anno, frazionate di frequenza K, le rate scadono ogni 1 fratto k anni. Le rendite possono essere poliennali. Le rate scadono ogni p anni. Esempio, rendite biennali come le colture o alcune colture. Le rendite possono essere anticipate e posticipate. Sono anticipate quando la rata è esigibile o pagabile all'inizio del periodo, ad esempio gli affitti. Sono posticipate quando la rata di competenza è esigibile alla fine del periodo, esempio gli stipendi. Rispetto alla durata della rendita, si parla di rendite limitate o temporanee, che hanno un numero finito di rate, e di rendite illimitate o perpetue, che hanno un numero illimitato di rate. Esempio di quest'ultime, le obbligazioni irredimibili, per le quali non è fissata la scadenza. Rispetto alla decorrenza, data a partire dalla quale iniziano le prestazioni, si parla di rendite immediate, che possono essere anticipate e posticipate, e per le quali si può dire che la prima rata scade immediatamente oppure tra un periodo, e rendite differite che possono essere a loro volta anticipate o posticipate. Le differite anticipate hanno la prima rata che scade tra p periodi, le differite posticipate hanno la rata che scade tra p più 1 periodi.